cambio di microfoni qui negli studios di Radio Blackout a farvi compagnia fino alle 5 anche quest'oggi pomeriggio. Daniela e Francesca per una nuova puntata di Interferenze, trasmissione a cura del laboratorio Sguardi Sui Generis. E allora, prima di iniziare ad entrare nel vivo della puntata, vi facciamo ascoltare un pezzo musicale che è stato colonna sonora della notte danzante Benefit Radio Blackout che c'è stata qui questa notte in via Cecchi, e la dedichiamo a tutti i DJ della Blackout Tribe che ci hanno fatto ballare e a tutti quelli che hanno ballato senza risparmiarsi sino alla fine. Questa è per voi. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boy said he wants some gin and juice, but I really don't wanna. It was like I had last week. I must say, he just talking. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad to my lord. To me, friend, it's just like a boy. Trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita all I need, a little bit of Rita what I need, a little bit of Sandra in the front, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica in my hand, a little bit of jump up and down and move it all around. Take your head to the ground, put your hand on the ground. Take one step. E un saluto a chi ci scrive che sta ancora ballando anche se al lavoro. E 05, allora mentre arrivano i primi messaggi vi ricordiamo appunto i contatti per scriverci in corso di trasmissione, quindi per gli sms e segnalazioni potete scrivere al 346 667 3263 per squilli di approvazione e telefonate, il numero fisso è 011 249 5669. E allora iniziamo come di consueto col presentarvi un gruppo che vi faremo ascoltare quest'oggi. Per la puntata di oggi abbiamo scelto un gruppo hip hop australiano che si chiama Combat Wombat, che deve il suo nome al fatto che il gruppo si sposti spesso con un furgone che ricorda appunto un wombat, che è questo marsupiale australiano di cui appunto raccontano nella presentazione del gruppo. Il gruppo è composto da 4 MC, tra cui una MC donna di cui sentirete tra poco. Hanno all'attivo 2 album più diversi singoli, e il primo pezzo che vi facciamo ascoltare si intitola Algorithm. War, religious war, if they tell you what you're fighting for. attention, no more guessing. Tired of being ignored, the shadow definitely pressing. I'm done with making a world like a shoot 'em up weapon. In a manipulated session of aggression and a worker who's no lesson from the past. We pass, cop and bomb, they ask. Why do they hate us and make us escape us? Wake up. Why not we bash and crash and smash and ask friends to help us in our task for revenge? Sending men to end all the sense. Bring the cream of militants if you think of the innocent. Trust. Premises and nemesis is just a must. Send in enough trucks, tanks, missiles abroad. Drop bombs so there's nothing around to blow up. Send in enough of our best tank trucks, missiles and such. Drop bombs so there's nothing around to blow up. Drop bombs so there's no one left but friends hating us. All planets changing, obviously angered. America's righteous constitution is mangled. Daily operation as a commentator's prey. Verbal agent orange if you get in their way. Paid in full to back the bending of rules. When fools take power, their swords indeed cruel. Nothing new, this Christian empire finds that Jesus was indeed born in Palestine. Remind yourself that history is written by the man with wealth. But he is passionless next to those who felt the rough hand the corrupt man has dealt. Where's the next target? Civilian market? Pursue those goals and fuck the families that cop it. The whole sky's filled with immense darkness. Where's the love? Is it too much to ask it? Treat the other people like a toxic stool. Religious fundamentalists look to argue. Treat the other people like a toxic stool. Let politicians them look to argue. The e 13 minuti, allora queste interferenze, iniziamo con entrare un po' nel vivo della puntata. Come di consueto diamo spazio alla rassegna stampa di questi ultimi giorni. Una notizia di ieri che arriva da Kiev, dove ieri appunto si sarebbe dovuto tenere il Gay Pride, l'annuale edizione del Gay Pride, ma dove le autorità cittadine hanno deciso di vietare la manifestazione, adducendo insomma come scusa ufficiale il fatto che la manifestazione sarebbe coincisa con le celebrazioni per la fondazione della città. Di fatto insomma la realtà è certamente un'altra, dal momento che le pressioni in città contro insomma gli omosessuali, qualsiasi manifestazione pubblica, sono molto forti, in primo luogo da parte della Chiesa Ortodossa, che certamente riveste un ruolo di rilievo all'interno del paese, poi anche da ampie frange del Parlamento, che infatti in queste settimane si stanno opponendo al vaglio di una proposta di legge che appunto avrebbe l'obiettivo di condannare la discriminazione degli omosessuali sui posti di lavoro, ma che di fatto è stata rimandata, data da destinarsi, perché appunto le opposizioni parlamentari sono state particolarmente forti. Insomma, nonostante questo clima di tensione, di divieto, ieri insomma leggiamo da una breve notizia ANSA di oggi che in realtà ieri poi un centinaio di attivisti è riuscito comunque a tenere per la prima volta un breve Gay Pride per le strade della città, un Gay Pride che si è tenuto sotto il costante controllo della polizia, che appunto ha dovuto frapporsi tra il Gay Pride e alcune persone di estrema destra che hanno tentato di attaccare continuamente il corteo. Ci sono stati infatti alcuni arresti, però di fatto appunto una, per quanto insomma in piccolo e con tutte le difficoltà del caso, sembra che appunto alcune centinaia di persone siano riuscite a sfidare i divieti imposti dalla città e a tenere comunque la manifestazione. We'll be right back. Sempre a proposito di Gay Pride, anche nella nostra città è uscito il documento ufficiale che ha la parola d'ordine, come parola d'ordine, Family Pride, quindi insomma un discorso di orgoglio legato alla famiglia, insomma un tema che sicuramente è quantomeno spinoso, per non dire che invece non è sicuramente nelle nostre corde per quello che invece ci riguarda, per cui quello che possiamo dire è che vari soggetti si stanno riunendo per proporre insomma un documento che parli sicuramente temi per noi più nelle nostre corde, per noi più importanti da rivendicare, anche insomma una spiegazione del perché comunque bisogna fare attenzione a un discorso di orgoglio legato alla famiglia, che tipo di famiglia, che concetti si accompagnano al discorso di famiglia che spesso appunto viene intesa come escludente per i soggetti che non sono eterosessuali, e di nuovo magari si fa un discorso anche sul matrimonio come istituzione, che sicuramente può accompagnare con sé anche tutta una serie di concetti che sono stati quantomeno opprimenti per determinate soggettività. Quindi ci si sta appunto riunendo per proporre un documento, ma non solo, anche la partecipazione di questa manifestazione in una maniera differente. Thank you. E ci spostiamo invece in Francia, dove leggiamo da un'ANSA che c'è stata ieri una manifestazione di donne che appunto avrebbero manifestato contro Femen. Il volantino distribuito di cui si facendo in questa notizia sarebbe ad opera del gruppo Antigoni e dice che insomma la donna, la sua dignità e che la dignità non passa attraverso l'esibizionismo e l'isteria. Quindi il discorso che avrebbero fatto queste donne è un'accusa a Femen che utilizzerebbero dei metodi totalitari e manipolatori e diciamo asservite al sistema dei media che finiscono per essere controproducenti per la causa dei diritti delle donne. Sicuramente il fenomeno Femen di cui ci stiamo occupando da un po' è un fenomeno complesso, un fenomeno che sta suscitando sicuramente reazioni, ma reazioni di diverso tipo, anche in alcuni casi anche complicate e controverse da decifrare. Per cui insomma noi ce ne stiamo occupando, stiamo cercando di tradurre dei contributi, di fare delle dirette di approfondimento con le persone interessate sui territori in cui si verificano appunto manifestazioni come queste, per cui possiamo dire fin d'ora che cercheremo di contattare Giulia, una ragazza che abbiamo già contattato altre volte qui su Interferenze, che è una compagna che vive a Parigi, per farci raccontare un po' meglio quanto sta accadendo. The word dust, stand on us, front page, arrows to fantasize. Get the hand to us, only what's cancer us. Nothing but the words to work, so I stand up with the flow to expose those with stocking. The mobile, I'm pumping mad toxin. Dioxin, no time for relaxing. When the sun be basking, it's the energy blasting. Raised by assassins, mastered and masking the truth. No clue, now we're through the coop, we knew. Planted the recipe by too many groups. Rushing for loot, the clues locked up in the vault. Now Hades underwater and our soil's full of salt. All the salt on our senses dispense with the call. Got my mortar coil, digging for my oil. Making my blood boil, I'm charcoal. Keeping my pride furrowed and my nose will burrow. Need a vivid to deliver the change that's thorough. Either be the planner or be the master girl. Climb with the craft to alter the map. Tackle the ice caps that I'm eating. Stop burning the coal. Goals with short term, goals out of control. Competing for the power your light glow. This fight flows, to be opened up like a rose. We decide, I come to sign Kyoto. Solo, open the pie, girl. Open the page of the window where the wind blows. Your mind is sunshine, it's crunch time, and lunchtime is over. Never say I never told you. Look over the back before I smash your Land Rover. Under with the people you dance over where you stand. So, y'all, call me the boulder of Boca Breeze. Urban, the river, Murray River, the coral reef. Give me relief. Running the tide before my tide turns gray. We got the alternative energy. Right. On the kill our free autonomy. We got, well, we got the alternative energy. Yeah. On the kill our free autonomy. Right. Musical metaphor about the things we're for. Any fans get that message in your head. Musical meta, morphosization. Bringing the freedom of information. That's in it. Technology. Coming out with the ecology. What you wear, we're getting together, getting covered with your music, what a community. Still catching the fatalities and the casualties of the confusion. That's what we're losing. Let's get our vision. Or is it fixing on a big gap? Vision, big gap. Global warming, I feel it burning. So why aren't we learning? Have you got the yearning to work this shit out? What it's all about? Let it go. Let the oxygen flow through your lungs. Or am I sticking in tongues? Hell no. I told you no. Skyscrapers, neon signs, advertising, lines to space stations, as automatons wait patient, data dump salvation, innovation exceeds the actual needs of the patient. Human brain waits at a crossroads, one time out for an upload, strive for light speed, never arrive at what you strove for, reverse on core of the centuries, leaving the sensitive pensive, the advances of 2020 inventors, a robot claim for maintenance to get combo, or what with slip, slop, slap, now a total no-go, deserts full of solar panels, riddling kids are surfing all the channels, suburb of Amazon, after compact is landfill, a terrorist to dismantle the bullet handle. Yeah, yeah. Dopo un breve intermezzo strumentale siamo tornati sulle note dei Combat Wombat, quella che state ascoltando è Clockwork, tra pochissimo torniamo in diretta con altri approfondimenti. Il discorso di Femen, uno dei contributi che si trova in rete, che appunto va a fare una critica all'opera, alle iniziative di questo collettivo, è un articolo comparso sulle Monde Diplomatique di Mona Chollet, di cui insomma abbiamo fatto una traduzione per andare un po' a capire quali sono le ragioni che venivano presentate in questo articolo, e di fatto il ragionamento che si fa è che il collettivo Femen sarebbe completamente asservito al sistema di media, non riuscirebbe a produrre alcun tipo di conflittualità, ma anzi agirebbe in una logica di totale compatibilità con quello che è il sistema, oltre al fatto che rispondono loro proprio fisicamente, quindi l'immagine che danno loro come gruppo è un'immagine che risponde completamente ai canoni estetici che sono imposti alle donne. Allora andiamo a leggervi un breve estratto da questa traduzione. Il paragrafo insomma che riprendiamo dall'articolo era intitolato "Se mostri le tette torno con il mio fotografo", e inizia dicendo: "Donne, volete farvi ascoltare? Una sola soluzione: spogliatevi. Nell'ottobre del 2012 in Germania i rifugiati accampati davanti alla porta di Brandeburgo nel centro di Berlino per denunciare le loro condizioni di vita faticavano ad attirare l'attenzione dei media. In collera, una giovane donna che manifestava si è scagliata contro un giornalista di Bild. Vuoi che mi spogli? Il giornalista annuisce e promette di tornare con il suo fotografo. Altri giornalisti vengono a saperlo ed ecco la folla di obiettivi riunirsi attorno alle giovani donne che sostengono i rifugiati. Non si sono mai spogliate, ma hanno approfittato dell'occasione per denunciare il sensazionalismo dei media. Le femmine invece sono state più pragmatiche. Fin dalle loro prime azioni in Ucraina nel 2008 erano solite scrivere gli slogan sulle loro schiene nude, ma i fotografi mostravano interesse solo per i loro seni. Decisero dunque di spostare le scritte. Questo stato di cose non suscita reazioni particolari in Inna Shevchenko, l'Ucraina che ha esportato il marchio femmine in Francia. Sappiamo di cosa i media hanno bisogno, dichiarava a dicembre a Rue 89. Sesso, scandali e aggressioni. Bisogna darglieli, essere nei giornali e esistere. Continua Monachelle dicendo, ma è necessario che dietro queste piazzate ci siano delle solide basi politiche, che diano loro del senso. Nel caso delle femmine è un eufemismo sostenere che alle azioni non segua alcun discorso, o se c'è è francamente disastroso. E diciamo che un'altra critica che viene spesso mossa loro è anche quella di non agire mettendosi in contatto con i gruppi di donne, di militanti che ci sono nei vari territori in cui spesso loro fanno azioni, quindi di agire in modo del tutto estemporaneo. Sicuramente appunto è un discorso non così lineare, perché diversi sono i livelli che vengono ad intersecarsi appunto relativamente a questo fenomeno, però ci sembra importante iniziare a ragionarne, importante iniziare a darne conto, e quindi insomma vi abbiamo proposto questa traduzione, ma davvero continueremo ad approfondire l'argomento perché ci sembra che sia comunque un fenomeno molto interessante. per aggiungere alcuni spunti materiali per provare a costruire un punto di vista sul fenomeno femmine, non solo che appunto certo non può sposare le critiche che arrivano da destra, ma neanche condividere appunto in toto delle pratiche che evidentemente presentano delle problematicità. Segnaliamo che questa sera dalle 20:30 su Rai News ci sarà una puntata dedicata all'attivista tunisina Amina, che appunto verrà trasmessa un'intervista con lei, appunto attivista che in realtà è stata arrestata nei giorni scorsi nel corso di alcuni scontri in Tunisia che in realtà riguardavano fenomeni più ampi rispetto al contesto politico, che però appunto aveva già fatto parlare di sé con alcune azioni fatte appunto in Tunisia. E sempre come segnalazione ci arriva quella che anche una puntata di Zeta, la trasmissione di Gad Lerner, avrebbe fatto una puntata sulla questione femen e un focus proprio su Amina. Questa puntata si può scaricare in rete, quindi anche lì per chi fosse insomma curioso di approfondire possono sicuramente trovarsi altri elementi, anche perché è anche problematica la questione di capire se effettivamente Amina sia o no un'attivista di femmen, perché i giornali l'hanno dipinta in questa maniera, ma non si capisce se effettivamente perché ha avuto una pratica simile sia stata ricondotta al gruppo o se effettivamente invece ci siano realmente dei contatti. Or is it Izzy or Lizzie? Izzy. Yeah. What is Izzy short for? For Isabella. Isabella, it's a lovely name. Yeah. Yeah. Oh, I'm just ringing up there. E per voi ancora un pezzo di Combat Wombat, questa è Radio Vumera. Yes. And I was actually there working as an independent journalist through a community television station from Melbourne. Well, the fact that it got out of control is due to pure emotion of people so desperate that they were prepared to do anything for their freedom. Yeah, we'll bugger them. Let them not be there. Well, that's easier said than done. If your home was being bombed by NATO, by America, if you lived in a village and your children you're a very left-wing lady, aren't you? I'm just a human. I don't characterize myself as left-wing or right-wing. All I know is I care about other human beings, and I don't believe they should be incarcerated just because they want to live and want to have freedom. Well, you let those people into our community and you'll have a million on your doorstep overnight. Who are you? Are you not a boat person? Did your parents not come by plane or boat? No, unless you're an Aboriginal person, absolutely. You are a boat person as well. This is my point. This is the point the I've always made. The fact that you might not be black, the fact you might not be Arab, that's just a racist. Thing if you think they're any different from you. Izzy, what I'm saying to you is this. This is our country. It is not their country. We this have is Aboriginal land, man. This is what? Not Aboriginal land. Do you know what happened? It was Aboriginal land long before you got here, any of your family got here, anyone you know got here. This is Aboriginal land first. Izzy, do you and know the what happened? Came next. And in fact, if you're Arab, Asian, white, doesn't matter. You're all people, so what can we live together? You know, that's bullshit. Wait, now, what I'm saying to you is, in 1788, there were three ships that arrived in Sydney Cove. Yes. Well, Port Jackson. And before that, there was over 52 Aboriginal tribes with over 100 different dialects that lived in this country. Now, can you see the lesson that the Aboriginal people learnt, that three boats didn't seem to be too important, but they lost their country. They lost their country. We arrived and took their country. Now, if you want these people... See, that's the mentality of that race, isn't it? Of what people come colonise and take their country. The people are right, wait now. Incarcerate, get penetrate, blow. Knock down the fence, bring sound effects loud. Pick up a crowd with a vow not to bow down. To predicament, implemented on the innocent with intent evident to better the plight. By our government, ambition to ever see in the light. Interested only in money, defeating the right. Ring of a vulture culture, killing them too. Only one you'll ever see now is in the zoo. With the nature of man seeming damned to follow through. Tell me how long to them come to Rip, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refugee, refug push it in the media, fake photos to teach your home, you starve alone as groups start sewing together. Stand alone behind bars, thinking no one knows where you are. Fort Headland, Woomera. My name is Montazir. What do you think of your experience in the Woomera Detention Centre? It is very horrible for children and families, for single men also, and there is no education in the 2 days. Everyone gets crazy there. Because of that we escaped. We were very tired and very fed up of the fences everywhere, from SCM, Dima. 3 times I killed myself by razor, and 2 times I suicided me. Then they took me. They were throwing in the camp. So everyone get crazy. It was not working and we cannot breathe. And children and little boys, the smoke go in the eyes in them. When they breathe, it is very bad for their lungs. Fatigue as containers. Yes. Throating. I'm very happy to be free. I want to go to school, read and learn English. In Cambly, we didn't learn English. We learned too many bad things. We learned how to cut themselves, how to drink shampoo. 16:44, ci avviamo insomma verso la conclusione di questa puntata di Interferenze. Adesso vi facciamo ascoltare un altro pezzo musicale e poi ci spostiamo decisamente come coordinate geografiche. When the truth is found to be lies and all the joy thank you. chiusura di trasmissione vorremmo andare a dare risalto ad una lettera che appunto che si trova in rete di Ebe de Bonafini, che è la presidente dell'Associazione delle Madres de Plaza de Mayo, che appunto ha scritto questa lettera in seguito alla morte di Videla. E lei scrive: è morto Videla, la notizia mi ha paralizzata, ho pensato subito ai miei figli, come facevo a pensare ad altro? Ho pensato a tutte le madres, a tutto il dolore, a tutte le famiglie distrutte. Mi è crollato il mondo e ogni volta che qualcuno chiamava sentivo sempre più l'angoscia, perché la maggior parte di quelli che hanno appoggiato la dittatura, i giornali, soprattutto il Clarín, adesso lo chiamano dittatore, lo denominano genocida. Che vergogna! Ma io pensavo ancora a loro, ai nostri figli. Hanno tanto amato questo paese, hanno tanto dato per esso, ed io dovevo ascoltare questi che hanno appoggiato la dittatura, che oggi parlano di genocida? Quanta ipocrisia! Il nostro popolo deve capire che tutta questa ipocrisia ha fatto sì che i nostri figli fossero segnalati come terroristi, quando tutti questi, che oggi si levano gli abiti sporchi di dosso, hanno guardato da un'altra parte. Alcuni si sono arricchiti, altri si sono riempiti di obbrobri. Volevo parlare ma non riuscivo. Oggi ho deciso di scrivere qualcosa affinché tutti quelli che erano in attesa della mia voce potessero sapere quello che penso. Sono stata soffocata dal dolore, dall'angoscia, dalla rabbia e dalla tristezza, ma di colpo mi è scoppiato il cuore e ho detto: che fortuna aver avuto figli così valorosi, questa è l'unica felicità che ho provato alla fine, il coraggio dei nostri figli nel dare le loro vite per far vivere altri. Responses by multinational forces. 16:54, allora siamo davvero in chiusura. Prima di passare i microfoni ad Animal Radio, vi vogliamo ricordare un appuntamento Benefit Blackout di questo weekend, venerdì, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'hip hop. Sul palco del centro sociale a Scatasuna si esibirà il gruppo Good Old Boys, che è composto dai Colle del Fomento e da Chaos One, quindi appuntamento dalle 23 alla Scatasuna, con insomma ci saranno anche introduzioni e DJ set prima del concerto, quindi adesso vorremmo farvi ascoltare un loro pezzo. Benvenuti in mezzo al panico del secolo mediatico, dopo ogni regola infranta e non esiste sala franca, dove la gente arranca presso al prossimo spettacolo. Già dal giorno sera è stato in cielo la bandiera bianca, questa è l'ora della catalessi che puoi farci per amarci. Viviamo duplicati di noi stessi, vittime degli eccessi, riflessi in questo abisso telematico, a metà tra il patetico e il drammatico. Zio, non ci ripigliamo più e siamo al conto, è guerra sullo sfondo, se il futuro adesso io sono pronto ed utilizzerò ogni mezzo finché non mi spetterò. Raga del loro stile che c'ho io, mi capisci, beh, ti do un motivo per restare. Tutto al faccio e testare di sta testa alta, di questo affare non lascia fare a chi sa fare un stage. Caos e collo del momento, bomba a tempo con i rage. Questo è il tema gesto, vado avanti, lo sapete. Grazie, volete, avrete quello che chiedete. Questo è il tema gesto, sulla rete, fatemi sentire che ci siete. Fuoco in tracce. Questo è il tema di gente, vado avanti, non saprete. Grazie, volete, avrete quello che chiedete. Questo è il tema di gente sulla rete, fatemi sentire che ci siete. Questo è il tema di gente, vado avanti, non saprete. Grazie, volete, avrete quello che chiedete. Questo è il tema di gente sulla rete, fatemi sentire quanti siete. E l'appuntamento con i Good Old Boys quindi è per questo 31 maggio, Benefit Radio Blackout. Invece l'appuntamento con noi torna domenica prossima, e mandiamo in chiusura un saluto a Camilla, altra voce di Interferenze, e vi lasciamo in ascolto di Animal Radio. Buon ascolto sui 105.250, ci risentiamo domenica.